Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Nei giorni scorsi, un tribunale amministrativo spagnolo ha ordinato la rimozione dei crocifissi dalle aule di una scuola pubblica. Anche se questa è la prima volta che un tribunale dà ragione a chi chiede di togliere i simboli religiosi, le contestazioni contro la presenza dei crocifissi nei luoghi pubblici hanno radici lontane. Già nel 1988, dalle pagine dell'Unità, la scrittrice e parlamentare del PCI Natalia Ginzburg esprimeva la sua amarezza contro queste iniziative. Dicono che il crocifisso debba essere tolto dalle aule della scuola. Il nostro è uno stato laico, che non ha diritto di imporre che nelle aule ci sia il crocifisso. La signora Maria Vittoria Montagnana, insegnante a Cuneo, aveva tolto il crocifisso dalle pareti della sua classe. Le autorità scolastiche le hanno imposto di riappenderlo. Ora si sta battendo per poterlo togliere di nuovo e perché lo tolgano da tutte le classi nel nostro paese. Per quanto riguarda la sua classe, ha pienamente ragione. Però a me dispiace che il crocifisso scompaia per sempre da tutte le classi. Mi sembra una perdita. Tutte, o quasi tutte le persone che conosco, dicono che vada tolto. Altre dicono che è una cosa di nessuna importanza. I problemi sono tanti e drammatici, nella scuola e altrove, e questo è un problema da nulla. È vero. Eppure, a me dispiace che il crocifisso scompaia. Se fossi un insegnante, vorrei che nella mia classe non venisse toccato. Ogni imposizione delle autorità è orrenda per quanto riguarda il crocifisso sulle pareti. Non può essere obbligatorio appenderlo. Però, secondo me, non può nemmeno essere obbligatorio toglierlo. Un insegnante deve poterlo appendere se lo vuole e toglierlo se non lo vuole. Dovrebbe essere una libera scelta. Sarebbe giusto anche consigliarsi con i bambini. Se uno solo dei bambini lo volesse, dargli ascolto e ubbidire. A un bambino che desidera un crocifisso appeso al muro nella sua classe, bisogna ubbidire. Il crocifisso in classe non può essere altro che l'espressione di un desiderio. I desideri, quando sono innocenti, vanno rispettati. L'ora di religione è una prepotenza politica. È una lezione. Vi si spendono delle parole. La scuola è di tutti, cattolici e non cattolici. Perché vi si deve insegnare la religione cattolica? Ma il crocifisso non insegna nulla. Tace. L'ora di religione genera una discriminazione fra cattolici e non cattolici, fra quelli che restano nella classe in quell'ora e quelli che si alzano e se ne vanno. Ma il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È l'immagine della rivoluzione cristiana che ha sparso per il mondo l'idea dell'uguaglianza fra gli uomini fino allora assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo. Vogliamo forse negare che abbia cambiato il mondo? Sono quasi 2000 anni che diciamo prima di Cristo e dopo Cristo. O vogliamo forse smettere di dire così? Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. È muto e silenzioso. C'è stato sempre. Per i cattolici è un simbolo religioso. Per altri può essere niente, ma parte del muro. E infine, per qualcuno, per una minoranza minima o magari per un solo bambino, può essere qualcosa di particolare, che suscita pensieri contrastanti. I diritti delle minoranze vanno rispettati. Dicono che da un crocifisso appeso al muro in classe possono sentirsi offesi gli scolari ebrei. Perché mai dovrebbero sentirsene offesi gli ebrei? Cristo non era forse un ebreo e un perseguitato? E non è forse morto nel martirio, come è accaduto a milioni di ebrei nei lager? Il crocifisso è il segno del dolore umano. La corona di spine, i chiodi, evocano le sue sofferenze. La croce che pensiamo alta in cima al monte è il segno della solitudine nella morte. È il segno della solitudine nella morte. Non conosco altri segni che diano con tanta forza il senso del nostro umano destino. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Per i cattolici, Gesù Cristo è il figlio di Dio. Per i non cattolici, può essere semplicemente l'immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato ed è morto sulla croce per amore di Dio e del prossimo. Chi è ateo cancella l'idea di Dio, ma conserva l'idea del prossimo. Si dirà che molti sono stati venduti, traditi e martoriati per la propria fede, per il prossimo, per le generazioni future, e di loro sui muri delle scuole non c'è immagine. È vero, ma il crocifisso li rappresenta tutti. Come mai li rappresenta tutti? Perché prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono uguali e fratelli tutti, ricchi e poveri, credenti e non credenti, ebrei e non ebrei, e neri e bianchi, e nessuno prima di lui aveva detto che nel centro della nostra esistenza dobbiamo situare la solidarietà fra gli uomini. E di essere venduti, traditi e martoriati e ammazzati per la propria fede, nella vita può succedere a tutti. A me sembra un bene che i ragazzi, i bambini, lo sappiano fin dai banchi della scuola. Gesù Cristo ha portato la croce. A tutti noi è accaduto o accade di portare sulle spalle il peso di una grande sventura. A questa sventura diamo il nome di croce, anche se non siamo cattolici, perché troppo forte e da troppi secoli è impressa l'idea della croce nel nostro pensiero. Tutti, cattolici e laici, portiamo o porteremo il peso di una sventura, versando sangue e lacrime e cercando di non crollare. Questo dice il crocifisso. Lo dice a tutti, mica solo ai cattolici. Alcune parole di Cristo le pensiamo sempre e possiamo essere laici, atei o quello che si vuole, ma fluttuano ugualmente sempre nel nostro pensiero. Ha detto: «Ama il prossimo come te stesso». Erano parole già scritte nell'Antico Testamento, ma sono divenute il fondamento della rivoluzione cristiana. Sono la chiave di tutto. Sono il contrario di tutte le guerre. Il contrario degli aerei che gettano le bombe sulla gente indifesa, il contrario degli stupri e dell'indifferenza che tanto spesso circonda le donne violentate nelle strade. Si parla tanto di pace, ma che cosa dire a proposito della pace, oltre a queste semplici parole? Sono l'esatto contrario del modo in cui oggi siamo e viviamo. Ci pensiamo sempre, trovando esattamente difficile amare noi stessi e amare il prossimo più difficile ancora. O anzi forse completamente impossibile, e tuttavia sentendo che là è la chiave di tutto. Il crocifisso queste parole non le evoca, perché siamo abituati a vedere quel piccolo segno appeso e tante volte ci sembra non altro che una parte del muro. Ma se ci viene di pensare che a dirle è stato Cristo, ci dispiace troppo che debba sparire dal muro quel piccolo segno. Cristo ha detto anche: «Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati». Quando e dove saranno saziati? In cielo, dicono i credenti. Gli altri invece non sanno né quando né dove, ma queste parole fanno, chissà perché, sentire la fame e la sete di giustizia più severe, più ardenti e più forti. Cristo ha scacciato i mercanti dal Tempio. Se fosse qui oggi, non farebbe che scacciare mercanti. Per i veri cattolici deve essere arduo e doloroso muoversi nel cattolicesimo quale è oggi, muoversi in questa poltiglia schiumosa che è diventato il cattolicesimo, dove politica e religione sono sinistramente mischiate. Deve essere arduo e doloroso per loro districare da questa poltiglia l'integrità e la sincerità della propria fede. Io credo che i laici dovrebbero pensare più spesso ai veri cattolici, semplicemente per ricordarsi che esistono e studiare di riconoscerli nella schiumosa poltiglia che è oggi il mondo cattolico e che essi giustamente odiano. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. I modi di guardarlo e non guardarlo sono, come abbiamo detto, molti. Oltre ai credenti e non credenti, ai cattolici falsi e veri, esistono anche quelli che credono qualche volta sì e qualche volta no. Essi sanno bene una cosa sola, che il credere e il non credere vanno e vengono come le onde del mare. Hanno le idee in genere piuttosto confuse e incerte. Soffrono di cose di cui nessuno soffre. Amano magari il crocifisso e non sanno perché. Amano vederlo sulla parete. Certe volte non credono a nulla. È tolleranza consentire a ognuno di costruire intorno a un crocifisso i più incerti e contrastanti pensieri. Letture di Radio 24. Nel libro Omelie, l'anno liturgico narrato da Joseph Ratzinger, Papa, viene raccolta per la prima volta la predicazione di Benedetto XVI in occasione delle messe e dei vespri. Ascoltiamo la lettura dell'omelia pronunciata in San Pietro il 1 dicembre dello scorso anno. Cari fratelli e sorelle, l'Avvento è per eccellenza il tempo della speranza. Ogni anno questo atteggiamento fondamentale dello Spirito si risveglia nel cuore dei cristiani, che mentre si preparano a celebrare la grande festa della nascita di Cristo Salvatore, ravvivano l'attesa del suo ritorno glorioso alla fine dei tempi. La prima parte dell'Avvento insiste proprio sulla parusia, sull'ultima venuta del Signore. Le antifone di questi primi vespri sono tutte orientate, con diverse sfumature, verso tale prospettiva. La breve lettura, tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi, fa riferimento esplicito alla venuta finale di Cristo, usando proprio il termine greco parusia. L'Apostolo esorta i cristiani a conservarsi irreprensibili, ma soprattutto li incoraggia a confidare in Dio, che è fedele e non mancherà di operare la santificazione, in quanti corrisponderanno alla sua grazia. Tutta questa liturgia vespertina invita alla speranza, indicando all'orizzonte della storia la luce del Salvatore che viene. Quel giorno brillerà una grande luce, seconda antifona. Verrà il Signore in tutta la sua gloria, terza antifona. Il suo splendore riempie l'universo. Antifona al Magnificat. Questa luce che promana dal futuro di Dio si è già manifestata nella pienezza dei tempi. Perciò la nostra speranza non è priva di fondamento, ma si appoggia su un avvenimento che si colloca nella storia e al tempo stesso eccede la storia. È l'avvenimento costituito da Gesù di Nazaret. L'Evangelista Giovanni applica a Gesù il titolo di luce. È un titolo che appartiene a Dio. Nel credo, infatti, noi professiamo che Gesù Cristo è Dio da Dio, luce da luce. Al tema della speranza ho voluto dedicare la mia enciclica Spe Salvi. Sono lieto di offrirla idealmente a tutta la Chiesa in questa prima domenica di Avvento, affinché, durante la preparazione al Santo Natale, la comunità e i singoli fedeli possano leggerla e meditarla, per riscoprire la bellezza e la profondità della speranza cristiana. Questa, in effetti, è inseparabilmente legata alla conoscenza del volto di Dio, quel volto che Gesù, il Figlio unigenito, ci ha rivelato con la sua incarnazione, con la sua vita terrena e la sua predicazione, e soprattutto con la morte e risurrezione. La vera e sicura speranza è fondata sulla fede in Dio amore, Padre misericordioso, che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, affinché gli uomini, e con loro tutte le creature, possano avere la vita in abbondanza. L'Avvento, pertanto, è tempo favorevole alla riscoperta di una speranza non vaga e illusoria, ma certa e affidabile, perché è ancorata in Cristo, Dio fatto uomo, roccia della nostra salvezza. Fin dall'inizio, come emerge dal Nuovo Testamento e segnatamente dalle lettere degli Apostoli, una nuova speranza distinse i cristiani da quanti vivevano la religiosità pagana. Scrivendo agli Efesini, San Paolo ricorda loro che prima di abbracciare la fede in Cristo, essi erano senza speranza e senza Dio in questo mondo. Questa espressione appare quanto mai attuale per il paganesimo dei nostri giorni. Possiamo riferirla in particolare al nichilismo contemporaneo, che corrode la speranza nel cuore dell'uomo, inducendolo a pensare che dentro di lui e intorno a lui regni il nulla. Nulla prima della nascita, nulla dopo la morte. In realtà, se manca Dio, viene meno la speranza. Tutto perde di spessore. È come se venisse a mancare la dimensione della profondità e ogni cosa si appiattisse, privata del suo rilievo simbolico, della sua sporgenza rispetto alla mera materialità. È in gioco il rapporto tra l'esistenza, qui e ora, e ciò che chiamiamo al di là. Esso non è un luogo dove finiremo dopo la morte, è invece la realtà di Dio, la pienezza della vita a cui ogni essere umano è, per così dire, proteso. A questa attesa dell'uomo Dio ha risposto in Cristo, con il dono della speranza. L'uomo è l'unica creatura libera di dire di sì o di no all'eternità, cioè a Dio. L'essere umano può spegnere in se stesso la speranza, eliminando Dio dalla propria vita. Come può avvenire questo? Come può succedere che la creatura fatta per Dio, intimamente orientata a Lui, la più vicina all'Eterno, possa privarsi di questa ricchezza? Dio conosce il cuore dell'uomo. Sa che chi lo rifiuta non ha conosciuto il suo vero volto e per questo non cessa di bussare alla nostra porta, come umile pellegrino in cerca di accoglienza. Ecco perché il Signore concede nuovo tempo all'umanità, affinché tutti possano arrivare a conoscerlo. È questo anche il senso di un nuovo anno liturgico che inizia. È un dono di Dio, il quale vuole nuovamente rivelarsi nel mistero di Cristo, mediante la parola e i sacramenti. Mediante la Chiesa vuole parlare all'umanità e salvare gli uomini di oggi. E lo fa andando loro incontro per cercare e salvare ciò che era perduto. In questa prospettiva, la celebrazione dell'Avvento è la risposta della Chiesa sposa all'iniziativa sempre nuova di Dio sposo, che è, che era e che viene. All'umanità che non ha più tempo per Lui, Dio offre altro tempo, un nuovo spazio per rientrare in se stessa, per rimettersi in cammino, per ritrovare il senso della speranza. Ecco allora la sorprendente scoperta. La mia, la nostra speranza, è preceduta dall'attesa che Dio coltiva nei nostri confronti. Sì, Dio ci ama e proprio per questo attende che noi torniamo da Lui, che apriamo il cuore al Suo amore, che mettiamo la nostra mano nella Sua e ci ricordiamo di essere Suoi figli. Questa attesa di Dio precede sempre la nostra speranza, esattamente come il Suo amore ci raggiunge sempre per primo. In questo senso la speranza cristiana è detta teologale. Dio ne è la fonte, il sostegno e il termine. Che grande consolazione in questo mistero! Il mio Creatore ha posto nel mio spirito un riflesso del suo desiderio di vita per tutti. Ogni uomo è chiamato a sperare, corrispondendo all'attesa che Dio ha su di lui. Del resto, l'esperienza ci dimostra che è proprio così. Che cosa manda avanti il mondo, se non la fiducia che Dio ha nell'uomo? È una fiducia che ha il suo riflesso nei cuori dei piccoli, degli umili, quando attraverso le difficoltà e le fatiche si impegnano ogni giorno a fare del loro meglio, a compiere quel poco di bene che però agli occhi di Dio è tanto. In famiglia, nel posto di lavoro, a scuola, nei diversi ambiti della società. Nel cuore dell'uomo è indelebilmente scritta la speranza, perché Dio nostro Padre è vita e per la vita eterna e beata siamo fatti. Ogni bambino che nasce è segno della fiducia di Dio nell'uomo ed è conferma, almeno implicita, della speranza che l'uomo nutre in un futuro aperto sull'eterno di Dio. A questa speranza dell'uomo, Dio ha risposto nascendo nel tempo come piccolo essere umano. Ha scritto Sant'Agostino: «Avremmo potuto credere che la tua parola fosse lontana dal contatto dell'uomo e disperare di noi, se questa parola non si fosse fatta carne e non avesse abitato in mezzo a noi». Lasciamoci allora guidare da colei che ha portato nel cuore e nel grembo il Verbo incarnato. O Maria, Vergine dell'attesa e Madre della speranza, ravviva in tutta la Chiesa lo spirito dell'Avvento, perché l'umanità intera si rimetta in cammino verso Betlemme, dove è venuto e di nuovo verrà a visitarci il sole che sorge dall'alto. Cristo nostro Dio. Amen. Avete ascoltato la lettura dell'omelia pronunciata da Papa Benedetto XVI il 1 dicembre 2007, tratta dal libro Omelie, l'anno liturgico narrato da Josef Ratzinger, Papa. Libri Schei-Willer, 280 pagine, 15 euro.